Il giorno che Ingeborg fece ritorno a casa, benché capitasse nel pieno delle operazioni di raccolto e i primi campioni di grano di quell'anno fossero già sul tavolo del laboratorio pronti per essere esaminati, Herdremel rinunciò al pomeriggio di lavoro per recarsi in carrozza fino a Moek ad accoglierla, sostando sulla banchina impaziente, traboccante di aspettativa, come non gli accadeva da anni. Non va affatto bene per un uomo vivere da solo. Furono le prime parole che le rivolse inghiottendola nel suo capace abbraccio sulla porta del vagone, mentre il facchino, ansioso di portare fuori il bagaglio e correre via per assistere altri viaggiatori, attendeva con insofferenza la fine di quelle smancerie. Pecorella, come hai potuto rimanere lontana dal vecchio pastore così a lungo? Aveva un aspetto stupendo, osservò, abbronzata, con un'infinità di nuove lentiggini, longilinea, ringiovanita, una dolce mogliettina finalmente tornata dal proprio marito rimasto solo troppo a lungo. La sollevò per deporla con orgoglio sulla carrozza che guidò attraverso le vie di Moek, tenendole sempre un braccio a cingerle le spalle e facendo tutto il resto con l'altro, tra cui un cenno in direzione della carrozza del dottore, che li stava superando, accompagnato dall'annuncio «Guarita!». Il dottore, comunque, nel vedere Ingeborg, apparve sorpreso e invece di ricambiare il sorriso, fissò entrambi con aria imperscrutabile. Ingeborg domandò se i bambini stessero bene e se le loro orecchie fossero state tenute adeguatamente pulite. Orecchie? Esclamò Herr Dremmel. E di grazia, che cosa hanno mai a che fare le orecchie altrui con il ricongiungimento di una coppia di sposi? Lei gli disse un poco precipitosamente che sperava che Rosa e la cuoca si fossero comportate bene. Rosa e la cuoca, protestò. Che cos'è mai questo parlare di Rosa e della cuoca? Se non smetti immediatamente di pensare ai doveri di casa, ti bacerò ora, qui nel bel mezzo della strada maestra. Ingeborg rispose che non l'aveva ancora ringraziato abbastanza per l'aver lasciata andare a Zoppot, concedendole di rimanervi così a lungo. Troppo a lungo, piccola, disse, interrompendola e tirandosela ancora più vicino. Mi ero quasi dimenticato di avere una moglie così cara. Ma sono determinata a fare ammenda, proseguì lei, e a lavorare ancora più sodo di prima. E a rendere felice il tuo Robert, le disse, pizzicandole l'orecchio, e a dedicarmi ai bambini. È tremendo che abbiano dovuto trascorrere tutto questo tempo senza di me. Sono stati buoni? Buoni come pesci. Ma Robert, come pesci? Stanno bene, piccola, e sono felici. Ora basta con i bambini. Piuttosto dimmi di te, di come hai trascorso le tue giornate. Passeggiavo, andavo in barca a vela, facevo il bagno, mi abbronzavo e prendevo decisioni. Eccellente! Sono ansioso di conoscere i risultati. Spero che ti troveranno d'accordo, so per certo che saranno ottime per i bambini. Avevo un'aria così seria che egli non seppe resistere. Prendendole il mento con una mano, le voltò il viso verso di lui, poi lo scrutò attentamente. Come sempre, era più bello se visto da vicino, grazie al fascino delicato esercitato dalla sua pelle morbida, chiara. La esaminò per un istante con un sorriso compiaciuto, poi si chinò e decise di baciarla. Ingeborg arrossì e oppose resistenza. Cosa? Disse divertito. La mia mogliettina è in preda a ritrosie da verginella? Mi hai stortato il cappello, disse alzando le mani per riaggiustarselo. Robert, come vanno i campi? Non ho nessuna intenzione di parlare dei campi, voglio parlare di te. Oh, Robert, aggiunse con aria nervosa, non mi sono ancora completamente ristabilita. Continuo a prendere quelle antipatiche medicine, sai, quel tonico. Il dottore dice che sono ancora anemica. Ti nutriremo con porzioni della più rinvigorente carne bovina. Quindi non devi avertene male Nulla mi infastidirà, fin tanto che avrò la mia mogliettina di nuovo a casa, disse Herr Dremmel. E quando l'aiutò a scendere dalla carrozza davanti all'ingresso della canonica, presidiata da Robertlet e Ditti, ben ritti sull'attenti uno accanto all'altro, in attesa che la madre si avvicinasse abbastanza per offrirle i mazzolini di fiori che tenevano in mano, egli la baciò di nuovo e di nuovo le pizzicò l'orecchio, lodando Dio a voce alta per aver posto fine alla sua vedovanza. Presero il caffè, che già da tempo aveva rimpiazzato il meno corroborante tè, nel salotto che Rosa e la cuoca avevano stipato di fiori, con un dolce preparato per l'occasione cosparso anch'esso di petali. Herr Dremmel, con aria placida e soddisfatta, era comodamente adagiato sul divano, posto dietro il tavolo, e cingeva con un braccio le spalle della moglie. mentre Robertlet ed Itty, gli occhi sgranati per il dispiego di così splendide decorazioni dedicate al ritorno della madre e con indosso i migliori vestiti oltre che immacolate bavaglie, stavano di fronte a loro tenendo un comportamento più che mai impeccabile. Dal lato del tavolo, ove erano seduti, fissavano le due persone sul divano. Il padre, che si erano abituati a vedere perennemente di fretta, per il dovere sempre correre da qualche altra parte, in posizione reclinata e l'aria soddisfatta. La madre, seduta invece eretta, che con la veletta tirata sopra il naso, continuava a riempire le tazze e sorrideva offrendo incessantemente altra marmellata, altro latte e altre fette di dolce. La madre sembrava voler continuare a versare il caffè anche dopo essere divenuta consapevole, per via della loro espressione, che la tracimazione era vicina. Essi l'avevano anche informata, attraverso ansiose ripetizioni della parola sat, ma lei sembrò non udirle, che la quantità di liquido stava già raggiungendo il livello di guardia. I bambini si chiesero vagamente la ragione per cui, quando la madre li sentiva, la sua mano tremava e il caffè finiva sul piattino. Ora, disse Herr Dremel al termine della merenda, alzandosi e spazzando via le briciole rimaste imprigionate nelle numerose pieghe che caratterizzavano ogni suo indumento, mi ritirerò in laboratorio per un po'. Guardò Ingeborg e sorrise. Immagina, le disse, l'unico svago che ho avuto per 2 mesi e mezzo è stato all'abbraccio del mio laboratorio. Non ne potevo più. Che bello riavere la propria moglie a casa. Un uomo, per svolgere bene il suo lavoro, ha bisogno che la sua vita sia completa, ben equipaggiata in ogni diramazione. Il laboratorio gli appare scarno se egli non possiede anche una moglie, e sua moglie gli apparirebbe di certo altrettanto scarna se egli non avesse anche un laboratorio. Essenziale e superfluo, ecco i due estremi verso i quali oscilla il pendolo della vita dell'uomo saggio. E così dicendo, si chinò ancora una volta sopra di lei e le sollevò il viso facendo leva con un dito sotto il mento. Non è così piccola? Le chiese sorridendo. Credo di sì. Egli rise e, dopo averle tirato un ricciolo ribelle, si allontanò di umore ilare verso il processo di conta e pesatura dei chicchi di grano appena raccolto che aspettavano nei contenitori. Era un bel pomeriggio d'agosto e, in assenza di vento che scompigliasse le carte, le finestre dei laboratori erano aperte. Egli si rallegrò quando, con la coda dell'occhio per un istante sfuggito alla concentrazione, vide Ingeborg in giardino, che sul sentiero sottostante passeggiava avanti e indietro proprio come era avvezza a fare prima dell'avvento di quel difficile periodo, caratterizzato dalla permanenza sul divano e dal blaterare senza posa di vita ultraterrena. Era contento di vederla lì. Vi era un terrapieno coperto d'erba che degradava dal sentiero fino alla parete sotto la finestra, e se si stava in punta di piedi e si allungava un braccio era possibile bussare contro il vetro. Egli rammentò come Ingeborg usasse compiere quest'azione durante i primi tempi del loro matrimonio, nei giorni di bel tempo, tentando di allettarlo ad abbandonare il lavoro per amoreggiare fra i cespugli di lilà. Il pensiero di scoprirsi, quasi a sperare che lo facesse anche ora, lo divertì. Comunque era passato molto tempo dall'ultima infusione e, in occasione di quel ritorno alla normalità, qualche frivolezza in giardino non sarebbe stata del tutto inappropriata. Ma Ingeborg, benché stesse indugiando in quel punto da più di mezz'ora, non guardò verso di lui nemmeno una volta. Gironzolava avanti e indietro per il sentiero, senza cappello, in apparenza semplicemente godendosi la bellezza di una giornata estiva che si spegneva nel dolce crepuscolo. Egli si dimenticò subito di lei, intento com'era nelle operazioni che stava svolgendo. Fu quindi con l'aria sorpresa di chi ha perso il filo e sta tentando di raccapezzarsi che l'accolse, quando, dopo un colpo alla porta che non avevo udito, la vide entrare e sostare presso l'angolo del tavolo in attesa che terminasse la conta, un processo che gli conduceva ad alta voce, delle file di chicchi su cui era concentrato. I suoi pensieri erano ancora per lo più assorti nelle granaglie, quando, terminata l'addizione e annotato il risultato, sollevò il viso nella sua mente. Però rimaneva ancora un po' di spazio per produrre la lieve sensazione di sorpresa di trovarla lì. Da anni sua moglie non metteva piede in laboratorio. Dopo ricorrenti insubordinazioni, infatti, l'aveva educata al rispetto per la santità del luogo. In quell'occasione, però, non gli dispiacque venire interrotto. Al contrario, non appena resosi conto dell'accaduto, ne fu addirittura lieto. Quel pomeriggio il cuore di Herr Dremel era pervaso da un calore dilagante che lo rendeva incline a non irritarsi, nemmeno per il più valido dei motivi. «Sì, piccola?» disse. Lei iniziò immediatamente a sciorinare ciò che suonava come un discorso. La fissò stupito. Ingeborg pareva molto, molto agitata. Gli si rivolgeva rapidamente, con voce tremante. Al suo viso era affluito parecchio sangue, nel parlare si aggrappava al bordo del tavolo. Tutte quelle azioni avvennero in modo così improvviso e precipitoso da richiamargli alla mente lo zampillio prodotto da una bottiglia riempita all'eccesso, il cui contenuto fosse stato tenuto sotto pressione per troppo tempo. La fissò con uno sbigottimento che per qualche tempo gli impedì di comprendere il significato di ciò che stava dicendo. Quando questo avvenne, Ingeborg era già arrivata alla parola rovina. Rovina, ripeté Herr Dremel. Rovina, rovina. Deve cessare, non può continuare. Oh sì, l'ho capito chiaramente durante l'ultima parte del mio soggiorno a Zoppot. Forse è stata l'aria di mare a snebbiarmi la mente. È in gioco la nostra stessa esistenza, Robert. Un'esistenza felice, decorosa, in una casa felice, decorosa, in cui i bambini siano curati a dovere. Ma... L'interruppe Herr Dremel sollevando una mano. Un attimo. Che cos'è che deve cessare? Oh, Robert, non vedi che se continuerai in questo modo tutto di noi andrà in rovina? Sì, la nostra vita felice andrà in rovina se io continuerò in questa folle corsa verso delle gravidanze a briglie sciolte. Herr Dremel la fissò. A briglie sciolte? Le fece eco. Poi ripeté, tanto sconfinato era il suo stupore. Folle corsa verso Ingeborg. Hai detto a briglie sciolte? Sì, disse Ingeborg, premendo le mani una contro l'altra, evidentemente in preda a un'enorme agitazione. A Zoppot ho mandato in memoria tutto ciò che dovevo dirti, per poi riferirtelo senza sbagliare. Sapevo che se non fossi entrata subito qua dentro, mi sarei presto dimenticata il discorso che mi ero preparata. So che può sembrare ridicolo, ma... Gravidanza a briglie sciolte, ripeté Herr Dremel. Ah. Non stai forse dimenticando d'essere la moglie di un pastore? Oh, sì, lo so, lo so. So che esistono principi assoluti, quali il dovere e la provvidenza. Ma ci sono anch'io, ci sono anch'io. E Robert, come puoi non accorgertene? Saremo felici di nuovo se io starò bene, se saremo due persone vere invece che una persona e l'ombra di un'altra, invece che tu, un uomo in buona salute, in compagnia di un essere derelitto accasciato sul divano. E tu? Definiresti una moglie e una madre impegnata ad assolvere i propri obblighi un essere derelitto accasciato sul divano? Sì, rispose Ingeborg, affrettandosi a recitare la frase principale fra tutte quelle rimuginate a Zoppot e aggrappandosi disperatamente, prima che le argomentazioni di Robert mimassero il suo già debole coraggio, offuscando la chiarezza delle sue motivazioni. Sì, e dopo profonde riflessioni, sì. Sono giunta alla conclusione che la procreazione dei figli già deceduti, morti, le sembrava una parola sgraziata, quasi rude, è troppo rovinosa e che, oh Robert, esclamò allargando le braccia e abbandonando la recita di tutto quello che avevo imparato a memoria. Non credi dovremmo porre termine senza indugio a questo accanito riprodursi? Egli la fissò, troppo sbalordito per parlare. Vedi, è che non va proprio per me. Aggiunse con voce e occhi supplici, colmi d'ansia che tradivano le lacrime imminenti. Devo quindi capire che. E comunque non posso continuare, affermò con aria di protesta, tormentandosi le dita in un'agonia di angoscia. È rimasto così poco in me della donna che ero. Sento che la mente mi si ottenebra ogni giorno di più. Non riesco a pensare lucidamente. Riesco a malapena a formulare le parole necessarie per parlarti in questo momento. Oh, Robert. Inoltre la paternità non ti rende poi davvero felice. Quando i bambini sono con te, a stento ti accorgi della loro presenza. Di fatto non rende felice nessuno e io sono terribilmente dispiaciuta. Ma ho chiuso. Così dicendo, si prostrò a terra accanto a lui e poggiò la guancia contro la sua manica, tentando di mitigare il colpo inferto dalle sue parole, deponendovi una serie di baci, aggrappandosi a essa come se volesse fare ammenda per la propria insubordinazione nei confronti di quella impeccabile, tremenda mistura di dovere e provvidenza che schiacciava la sua vita. Spero che tu non te ne abbia male, continuava a ripetere. Ma Herr Dremmel, per la prima volta dal giorno in cui si erano conosciuti, si sentì intimamente offeso, profondamente ferito. Era riuscita a perforare la sua armatura nell'unico punto vulnerabile. La sua virilità ne usciva oltraggiata, la sua gentilezza, la sua pazienza, il suo affetto rifiutati e disprezzati. mentre sul viso gli si leggeva una ridda di contrastanti emozioni, dove l'orgoglio ferito, la collera e lo stupore di trovarsi dinanzi a una manifestazione di evidente sprezzo del dovere, oltre all'afflizione di colui che si vede rifiutare le doti e le benedizioni che porta in dono, lottano per avere la meglio. Abbassò lo sguardo sulla testa appoggiata al suo braccio. Poi, mentre ancora lei si aggrappava a lui e lo implorava con parole incoerenti di non aversene a male, si alzò, la prese a sua volta per mano facendola alzare, e la condusse alla porta. Lì, dopo aver indugiato in silenzio per un attimo di fronte alla moglie e tenendo la porta aperta mentre lei lo osservava con sguardo supplice, sbattendo le palpebre per rimuovere le lacrime, le disse, con parole che alle orecchie di lei suonarono strazianti: È evidente che non mi ami e che non mi hai mai amato. Capitolo 23. Ingeborg strisciò lungo il corridoio mentre dietro di lei riecheggiava il rumore della chiave girata nella serratura. Era annichilita. Adesso Robert pensava che lei non gli avesse mai voluto bene e, con sua grande frustrazione, non le permetteva nemmeno di spiegargli con quanta passione invece l'aveva amato e lo amava tuttora. Gettò un'occhiata fuori dalla minuscola finestra posta ai piedi delle scale, in direzione delle file disordinate di ortaggi che occupavano parte del giardino. Ecco che cosa le riservava la vita: cavolini di Bruxelles e una porta che le si chiudeva alle spalle. L'esistenza le appariva grigia, difficile e tragica. Aveva ferito Robert, l'aveva offeso. Ora se ne stava là dentro, pensando che lei non lo desiderasse. Le aveva detto parole sconvolgenti se si considerava che quelle labbra si erano sempre rivolte a lei solo per formulare gentilezze. Che cosa doveva fare? A quanto pareva l'unica alternativa possibile era la morte di altri esseri umani, e se anche quei figli fossero vissuti, e sarebbe ugualmente stata la morte dello spirito, la degenerazione di ogni gioia che risiedeva in quella casa, l'oscuramento di ogni luce. Trascuratezza, apatia e grave abbandono avrebbero avuto la meglio. Ma Ingeborg, in preda ai più pesanti rimorsi, non era più del tutto certa di avere ogni ragione dalla sua parte. Forse era davvero suo dovere continuare, forse si stava davvero comportando in modo crudele e malvagio. Confusa e infinitamente afflitta, sentiva che la chiarezza che aveva caratterizzato i pensieri di Zopot andava sfocandosi, sebbene quella stessa cortina di sofferenza e confusione che le offuscava la mente venisse trafitta in continuazione da una piccola lancia di luce, e quella luce indicava sempre la stessa direzione. Ingeborg, appoggiata alla parete presso la finestra aperta, tentava di dominare un contraddittorio conflitto di devastanti emozioni, dubbio e certezza, rimorso e determinazione. Per tutta la vita era stata servile, con l'eccezione di quei rari, impetuosi scatti di ribellione che insorgono talvolta proprio in coloro che sono stati educati alla servilità, tempeste repentine ben più distruttive della lotta costante di chi ribelle lo è sistematicamente. Le sue insurrezioni erano epocali, quando si verificavano mutavano il destino di un'intera famiglia. Di fronte a un carattere tanto acquiescente, un padre oppure un marito, si aspettavano ovviamente ulteriore acquiescenza. Non paventavano colpi di testa da parte sua, al contrario, sentivano di poter dormire sonni tranquilli. Invece, come avevano dimostrato i fatti, quell'essere remissivo, quella docile, arrendevole presenza, era capace di ritornare da un viaggio clandestino all'estero, fidanzata a uno straniero mai sentito nominare prima, indifferente all'energica opposizione della famiglia e decidere di sposarlo. Oppure, in questa seconda vulcanica sollevazione, senza aver mostrato la minima avvisaglia, si rifiutava di punto in bianco. L'impressione finale della scandalosa incoerenza della moglie nella mente di Herr Dremmel era di un grande punto in bianco di continuare ad adempiere ai suoi doveri di moglie. Dietro la porta serrata, la rabbia di lui era tanto sterminata quanto l'angoscioso turbamento di là dallo stipite. Ingeborg avrebbe continuato ad essere sua moglie senza averlo veramente. Sotto il suo tetto, un motivo di perpetua irritazione. Quella donna, priva di ogni potere di decreto, aveva di fatto decretato che non vi sarebbero stati altri Dremmel. L'indignazione degli antenati, beffati, gravava sul suo petto come un macigno. La perversione della moglie, la sua mancanza di rispetto verso l'equilibrio delle umane azioni del dare e dell'avere, necessarie allo sviluppo di una civiltà funzionale, l'avevano scioccato profondamente. Come avrebbe potuto continuare a lavorare con serietà con quella presenza sotto agli occhi, quel costante richiamo alla memoria di passate sazietà? E quel disturbo, quell'intralcio alla tranquillità si stavano già facendo sentire, dato che seduto di fronte alla campionatura del raccolto aveva incominciato a sbagliare il processo di pesatura. Aveva aggiunto in quantità errate ed era stato costretto a innumerevoli operazioni di calcolo, che continuavano a dare risultati sempre diversi e avvilenti, rendendo necessario ricontare tutto dal principio parecchie volte. Spinto dalla gravità della situazione, con un sentimento di pungente affetto, preso ad accarezzare il ricordo delle vedove a servizio che avevano punteggiato il suo passato, conferendo alla vita, negli anni precedenti al matrimonio, un'apprezzabile calma, nonché la pace dei sensi che la loro assoluta vetustà e la loro disadorna tetraggine, se non per il vezzo di una cuffia, gli avevano assicurato. In quel frangente, capiva che esse avevano avuto il prezioso ruolo di persiane socchiuse a ombreggiare i suoi occhi dal tormento dei bagliori accecanti di una vita familiare eccessivamente intensa. Persino la rappresentante più rozza di quella banda benedetta si rivelava ora migliore di questo minaccioso eccesso di confidenza. Nessuno prima di allora si era mai frapposto fra lui e il mondo esterno, nessuno aveva mai fatto sì che egli dovesse ricontare da capo tutti i chicchi. Un uomo che decide di lavorare, si disse, deve sgomberare la sua vita da ogni presenza familiare, o per meglio dire, da ogni donna che non sia vedova. Si corresse, pensando a quelle indispensabili azioni riguardanti il rifacimento dei letti e le incombenze di cucina che potevano essere svolte soltanto da rappresentanti del sesso femminile. Per un uomo onesto, si disse ancora, una moglie che non fosse una vera moglie, ma che ciò nonostante avesse persistito nell'apparire tale, si sarebbe rivelata soltanto un oneroso fardello. Ogni donna, riteneva, avrebbe dovuto avere un aspetto logoro e consunto, oppure al contrario, continuare a compiere quelle onorevoli funzioni che la natura l'aveva deputata a svolgere sino al momento in cui aveva sviluppato quella mancanza di attrattive che l'avrebbe definitivamente annoverata nella lista delle donne da rispettarsi. Il fatto che Ingeborg avesse scelto il momento in cui sembrava più giovane in forma che mai per rivoltarsi contro il dovere e la provvidenza, gli apparì nel fluire della prima ondata di collera un provvedimento deliberatamente malvagio. Era costernato, non poteva credere di essere stato chiamato a sospendere il suo lavoro, un'attività seria e ragguardevole, di essersi lasciato allettare a distaccarsene proprio mentre tutto procedeva a gonfie vele, solo per fare la conoscenza del dolore, un dolore inferto fra tutte le persone al mondo proprio da colei sulla quale aveva riversato ogni possibile gentilezza, la compagna che soleva appellare con il nomignolo di Pecorella. Ah, che destino crudele venir ferito dalla propria pecorella. Ed essere ferito in modo violento e inaspettato, con colpi che si abbattevano su di lui proprio nel momento più vulnerabile, quando il suo affetto per lei era più profondo, quando il suo cuore esultava di gioia per il suo ritorno a casa, proprio mentre pregustava il grande conforto che gli avrebbe dato l'affrontare la mano, con fiducia, nel suo fitto vello. Herr Dremmel era attonito. Chiuso nel suo laboratorio, rimase in una condizione di sbigottimento fino all'ora di cena. Poi, durante il pasto, si concentrò nella lettura di un libro che appoggiò di fronte a sé, utilizzando la pagnotta come leggio, mentre Ingeborg, con gli occhi arrossati dal pianto e prodigandosi mille servigi con l'efficienza sollecita di chi sia in preda a rimorsi di coscienza, gli lanciava occhiate furtive in attesa di un segno di perdono. Dopo cena rimase in laboratorio fin dopo mezzanotte, non meno sgomento di prima, riducendosi infine a camminare avanti e indietro in quel tempio di calma e compiendo infaticabili tentativi per comprendere le cause ultime di quel comportamento, per capire come poter ricondurre sua moglie alla ragione. Il compito di condurre una donna alla ragione gli era sempre apparso il modo più insensato di sprecare tempo prezioso. Dover discutere, persuadere, spiegare, minacciare, implorare, unicamente allo scopo di tornare indietro sino a un punto da cui nessuno avrebbe mai dovuto muoversi. Gli appariva la più assurda delle situazioni. Il pensiero di una moglie intrattabile e ribelle che girava per casa sua non cessava di incollerirlo. Per l'ennesima volta riconobbe la necessità, se un uomo voleva lavorare seriamente, di liberarsi da ogni forma di femminile puerilità, egocentrismo e soprattutto imprevedibile ritrosia. In questo stato di grave agitazione, gli apparve del tutto mostruosa che l'intero cosmo dovesse rimanere precluso ai suoi pensieri. Quel cosmo infinito, costituito da grandiose opportunità e ampi interessi, anche se solo per un giorno, per un'ora, incredibilmente obnubilato dal potere di una semplice donna di turbare la sua mente, inducendola a concentrare tutti i suoi pensieri su una faccenda tanto marginale. Si diresse verso la camera da letto, che era già mezzanotte passata, determinato a porre fine a certe sciocchezze. Era fermamente intenzionato a ricondurre sua moglie alla ragione attraverso la via più breve. Avrebbe sistemato la questione anche a costo di dover utilizzare la severità. In casa era lui il padrone, e se lei l'avesse costretto a quel passo, egli l'avrebbe compiuto. Portando con sé la lampada, si avviò verso la stanza con il piglio sicuro di chi non intende sottostare oltre ad alcune soperchierie. La camera però era vuota e aveva quell'aspetto glaciale tipico di un ambiente in cui non si riveli la minima traccia di presenza femminile, esattamente come lo era stata fin dall'inizio di giugno. Tutto questo è spregevole, opinò Herr Dremmel, sentendo che l'offesa perpetrata si andava aggravando ora che lei lo prendeva in giro, e deciso a scoprire in quale fortezza si fosse ritirata per espugnarla e sottrarvela. Si aggirò con ostinazione per tutta la casa, lampada alla mano, cercando la moglie. Iniziò con la calma di colui che è avvezzo alla ricerca, prima in cucina, dove timidi scarafaggi, bloccatisi presso le gambe del tavolo, lo guardavano di sottecchi, poi scrutando in salotto, locale pregno dell'aria viziata di una giornata ormai finita, indi arrivando a penetrare nella stanza dove Rosa e la cuoca si ritiravano nei loro letti la sera, ricevendo dalle occupanti un'occhiata di indicibile terrore. Infine, dopo aver incespicato lungo la scala angusta, approdando nella camera dove Robert e Ditti dormivano il sonno dei giusti. Lì, in una sorta di branda pieghevole, giaceva la moglie inadempiente, il viso girato contro la parete e il corpo composto in un parossismo di immobilità. «Ingeborg!» chiamò, tenendo la lampada ben alta sopra la sua testa. Lei non si mosse. «Ingeborg!» e chiamò di nuovo. Era la prima volta che vedevo una donna dormire così profondamente. Herr Dremmel girò intorno al letto e si chinò per scrutare il viso di lei, aiutato dal chiarore della lampada. Era per lo più nascosto, sprofondato nel cuscino, ma l'unico occhio visibile, ben chiuso, era l'occhio più addormentato che avesse mai visto. L'indifferenza che quella donna dimostrava dormendo della grossa mentre il marito, oltraggiato, si aggirava per la casa alla sua ricerca, lo colmò di disgusto. Senza compiere ulteriori tentativi di destarla, si girò sui talloni e sbattendo la porta dietro di sé, ritornò da basso. «Visto? I ladri sono arrivati alla fine», dichiarò Ditti, che aveva atteso quella visita per anni, distolta dai suoi sogni, sogni felici dallo sbattere della porta. «Sì?» reiterò Robertlet, disturbato a sua volta nel bel mezzo di un sogno in cui si stava dando buona prova di sé in qualche prodezza. «Ora dobbiamo stare ben nascosti sotto le coperte», disse Ditti, mettendo in atto una strategia decisa già da tempo. «Sì?» disse Robertlet. «Non ce n'è bisogno», disse la voce di Ingeborg, proveniente dal buio. Entrambi sobbalzarono nel letto, avendo dimenticato che la madre dormiva accanto a loro. Era solo papà. Ma il pensiero del padre, che di notte saliva nella loro stanza e sbatteva la porta, causò in loro un tale turbamento che ne scaturì un malessere ancora peggiore della paura dei ladri. E dopo un intervallo di tempo trascorso, rimanendo fermi e buoni, uno dopo l'altra si accoccolarono in silenzio nell'abbraccio delle coperte, dove attesero, armati di santa pazienza, il prossimo gesto che il padre avrebbe potuto compiere. Infine, mezzi soffocati ma rassegnati, si riaddormentarono.